Questo vuol dire che anche nel lavorare con i virus, come fai tu, serve la fantasia? Assolutamente sì. Serve la capacità di vedere anche i problemi un po' da lontano e magari vederli sotto una luce diversa, e questo ti permette di sviluppare delle idee che possono essere delle idee anche rivoluzionarie. Tu il raffreddore lo prendi? Poco. No, perché sai cose che noi non sappiamo? No, lo prendo poco, però io mi vaccino per l'influenza. Okay. Ogni anno e vaccino mia figlia e vaccino mio marito. Okay. E mia figlia non si ammala mai di influenza, vero? Perché è qui davanti a me. Quindi non salta un giorno di scuola? Non salta un giorno di scuola. Vedo il terrore negli occhi dei ragazzi. Quello che state ascoltando è la base di uno spot lanciato dalla Commissione Europea. Lo slogan era: la scienza è una cosa da donne. C'erano scienziate testimonial, tra le quali anche Ilaria Capua. Ilaria, la scienza è una cosa da donne, o c'è bisogno di ricordare che appunto c'è bisogno di più donne nella scienza, che è un po' il doppio percorso di questa campagna lanciata dalla Commissione Europea? Ma la scienza, secondo me, è un argomento, una disciplina, un'area che va affrontata da persone che hanno il talento per la scienza, siano esse donne o uomini. Storicamente le donne si sono avvicinate poco alla scienza, sicuramente poco ad alcune discipline scientifiche. E invece proprio in questa città abbiamo varie testimonianze, tra cui Margherita Hack, che ieri era presente alla conferenza e che ha detto: io ho fatto il classico, poi però mi sono innamorato della fisica e ho fatto fisica, e fisica è stato il mio... Ma, e l'ha detto che era stata rimandata in matematica un anno? No, perché un anno è stata rimandata in matematica. Ecco. Quindi la Commissione Europea vuole, attraverso questa campagna, fare avvicinare le ragazze alla scienza, e per cercare di sfruttare al meglio i talenti che ci sono. Quindi non è una campagna discriminatoria nei confronti dei maschi, è una campagna che vuole riequilibrare un po' le presenze femminili in determinate aree nelle quali sono poco presenti. Storie di ricercatori qui a Trieste Next. Vi presento uno di loro, si chiama Ralf Gebauer, è tedesco ma parla italiano, ricercatore in fisica nella materia, studia materiali e molecole per le energie rinnovabili ed è da 10 anni qui a Trieste. Ciao Ralf. Sì, buongiorno a tutti. E mi piaceva l'idea di avere uno straniero che lavorava in Italia, anche se la tua è una storia particolare, perché non sei né un cervello in fuga né un cervello che in entrata. Sì, è un po' la storia all'inverso del cervello in fuga. Sono dunque un tedesco che lavora in ricerca in Italia, ma non sono il solo, infatti ci sono tanti. La mia situazione è un po' particolare perché non lavoro in un'università, in un centro di ricerca italiana, ma lavoro in un centro delle Nazioni Unite. E il nostro centro, questo centro di fisica teorica qui a Trieste, ha la destinazione di aiutare i paesi in via di sviluppo a fare ricerca. E noi infatti invitiamo ricercatori, scienziati da ogni paese del mondo qui a Trieste per collaborare con noi in ricerca, per partecipare a convegni, conferenze che organizziamo qui a Trieste, proprio per diminuire questo effetto di confini e frontiere che sono nel mondo, anche nel mondo della scienza. Prima lei ha detto che i virus non conoscono confini, e un po' la nostra missione è anche di lavorare che i scienziati non dovrebbero conoscere i confini. E lei può immaginare naturalmente che per i paesi, diciamo, in Africa la scienza è una cosa molto molto importante. Se uno vuole dare una possibilità di sviluppo anche economico a questi paesi, naturalmente uno deve dare allora un minimo di persone educate anche in scienze che possono portare avanti università, insegnare la matematica, la fisica e questi temi di base anche nel loro paese. Ti chiederei un compito, ma per andare incontro ai ragazzi anche che sono qui, che stanno seguendo la puntata, si riesce a spiegare con un tweet, con un SMS, insomma, senza tante parole, che cos'è la fisica teorica? Sì, si può spiegare facilmente. Dunque, che cos'è la fisica? Penso tutti lo sanno. Proviamo a capire cosa è, come funziona il mondo, quello non animato, quello non biologico. E la fisica teorica cerca i principi di base, cerca secondo quale legge fondamentale tutto si muove dal pianeta fino all'atomo, all'elettrone, all'atomo. Avete capito, vero? Sì, c'è stato qualche timido sì. Tra gli ospiti qui al tavolo invece c'è anche Stefano Fantoni, presidente dell'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Buongiorno Fantoni. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Di fatto l'agenzia è un'agenzia che valuta il sistema universitario, vuol dire che siete al di sopra dei professori, siete al di sopra dei ricercatori. Qual è il vostro compito primario? Beh, dunque, non siamo al di sopra di nessuno, perché siamo professori come i professori dell'università, cioè eravamo in realtà professori come professori dell'università. Però effettivamente ci troviamo in una situazione in cui noi dobbiamo valutare le università dal punto di vista della ricerca che viene fatta, e dal punto di vista della formazione che viene data, proprio per portare le università nel contesto della valutazione allo stesso livello di quello che si fa negli altri paesi europei. Questa attività di valutazione, che a livello europeo parte originariamente all'Inghilterra ma si sviluppa in Francia e negli altri paesi europei, in Italia, che pure insomma è sede, insomma più che sede, ma insomma è nominata in quello che si chiama processo di Bologna, però che questa valutazione ce l'aveva nel suo cuore, in realtà non ce l'aveva ancora, o ce l'aveva in fieri. Quindi è un processo che è nato l'anno passato, quindi siamo giovanissimi, e lo scopo è proprio quello di portare il sistema universitario a far sì che ci sia una competizione sana, un reclutamento dei giovani sani, e tentare di far sì che le università abbiano sempre di più quello che i miei due colleghi qui accanto hanno detto fino adesso, cioè il fatto che la scienza, e anche non solo la scienza, anche le attività umanistiche, insomma, non hanno confini, devono non avere confini tra i vari paesi europei, per cui bisogna che le procedure di formazione e di ricerca siano omogenee in Europa, proprio per far sì che ci sia un flusso continuo, certo, una mobilità continua. Anche la crisi, ahimè, non ha confini. Proprio ieri avete parlato delle nuove politiche europee della ricerca, soprattutto l'impatto reale che la crisi sta avendo sui finanziamenti alla ricerca. E quali sono le prospettive? Questa è una domanda che farete al ministro Profumo quando verrà qua. Quali sono i timori allora? questa è più propria, è più opportuna. I timori sono che ci sia disattenzione da parte della società civile sui problemi della ricerca, e se c'è disattenzione da parte della società civile, certo ci sarà c'è stata soprattutto, diciamo, da parte di chi ci governa e di chi è un decisore politico. Io credo che noi abbiamo sofferto nel mondo non solo della ricerca ma anche della formazione propriamente detta. Le due cose sono molto vicine, come avete sentito, perché non si fa una buona formazione se chi la fa non è un bravo ricercatore, però che insomma il sistema sia sottofinanziato soprattutto, è sottofinanziato in quelle che sono i contributi che il mondo produttivo dà all'università, nel senso che se uno va a vedere cosa succede in Europa, i contributi del mondo produttivo sono maggiori in termini finanziari. Questo significa anche che non solo c'è una disattenzione della società, ma c'è una disattenzione anche del mondo produttivo. Certo. E questo io credo sia ancora più grave da un certo punto di vista, proprio per far sì che questo succeda sempre meno, che manifestazioni come questa sono molto molto importanti. I ragazzi devono sapere che che la scienza è importante, che il futuro sta nelle loro mani. Senza scienza non si fa innovazione, non si procede, non c'è niente, diciamo. Quindi noi abbiamo fatto male, noi della nostra generazione, insomma, un pochettino abbiamo fatto male, non siamo stati capaci di trasmettervi sogni, ardori della scienza. Questo è un nostro difetto, ma voi dovete imparare. Perché nessuno dice ai ragazzi che dietro un iPod probabilmente c'è anche un teorico della fisica, nel senso che no, è questo il diceva, percorso. Esatto. Mio amico Gebauer, no? Un'ultima domanda, Fantoni, ma ecco, gli obiettivi della ricerca e della ricerca accademica e gli obiettivi invece, le direttive, i finanziamenti dell'Unione Europea viaggiano in strade parallele? Beh, insomma, strade parallele divergenti, no? Queste cose si dicono sempre, nel senso che certamente è cresciuta l'attenzione a finanziamenti alla ricerca fondamentale negli anni recenti, soprattutto con l'istituzione dell'European Research Council. Ieri avevamo la presidente di questa istituzione, Helga Novotny, che ci ha raccontato, ci ha parlato, eccetera. Quella è un'istituzione santa, veramente, diciamo, un'istituzione molto seria, molto di riferimento per davvero per tutti i paesi europei. Ma insomma, la percentuale di finanziamenti che gli vengono assegnate non è infinita rispetto al resto. Quindi, diciamo, certamente la ricerca fondamentale ha un peso ancora, secondo me, sottostimato rispetto a quello che dovrebbe essere. Per il resto noi soffriamo a livello decisionale in Europa del fatto che per troppo tempo abbiamo dimenticato di essere veramente europei, non a parole, ma europei vuol dire andare nei posti giusti, essere rappresentativi, contare, non essere derisi e poter prendere insieme agli altri paesi quelle decisioni che vanno prese, perché è chiaro che in ciascun paese ci sono delle potenzialità e delle expertise particolari. In Italia ce ne sono alcune, in Inghilterra ce ne sono altre, eccetera. Se i finanziamenti vengono dirottati sempre in cose nelle quali noi non siamo esperti, è chiaro che non li prenderemo. Quindi c'è un problema di questo tipo. Perfetto, grazie davvero a Stefano Fantoni, presidente dell'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Ilaria, i virus non aspettano, avventure, disavventure, riflessioni di una ricercatrice globetrotter. Anche questo è fare divulgazione scientifica attraverso una storia, attraverso le tue storie. So che ti sei divertita molto a scrivere questo libro, ma già prima di scrivere questo libro avevi capito che la tua era stata una vita avventurosa? Ma io è tanto tempo che ho in mente questo, l'ho avuto in mente per molto tempo, perché questo libro raccoglie degli eventi sorprendenti che mi sono capitati sia dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista personale. E tutte le volte che mi succedevano queste cose dicevo: ma guarda cosa mi è successo, ma guarda. E quindi questo libro in realtà si doveva chiamare Il libro dei guarda, perché sono, insomma, una raccolta di aneddoti che però devono fare anche riflettere. E parto, mi sembra il racconto più datato è del 96, quando andai in Sudafrica per occuparmi di una malattia per conto dell'Unione Europea, di una febbre emorragica, la Crimean Congo Hemorrhagic Fever, e mi trovai catapultata in un focolaio di Ebola, che è una malattia temibile e molto più pericolosa. Quindi vuole essere anche un po' una testimonianza di come fare di necessità virtù e come alla fine, insomma, dimostrare che poi anche nelle situazioni più difficili, più critiche, alla fine si trova il modo per andare avanti. E questo avviene sia, diciamo, per viaggi di lavoro, però anche nel dover affrontare ogni giorno in Italia le difficoltà di un sistema che magari è ingessato, che non è dinamico e che diciamo ha altre priorità. Ecco, noi che lavoriamo nel campo della ricerca avremmo bisogno di un po' più di flessibilità e anche essere responsabilizzati un po' di più, perché alla fine nel resto del mondo, se tu sei un ricercatore che vale, ti viene data fiducia, ti viene data come una specie, ti viene dato una specie di prestito d'onore, no? E poi se vali resti, se non vali anche no, perché non ci dimentichiamo che la ricerca non è per tutti. Mm-hmm. La ricerca è per persone che hanno determinate caratteristiche e soprattutto non è un parcheggio la ricerca. Assolutamente, i virus non aspettano. Un'ultima domanda, quando guardi un virus così, un faccia a faccia col virus, per te è un'amica, un nemico, un'opportunità, è un qualcosa da conoscere, da scoprire, da debellare? Che allora, cos'è il virus? Io i virus adesso ne guardo pochi perché io scrivo progetti. Okay. E trovo soldi per i miei 45 precari della ricerca e quindi io di virus ne vedo gran pochi. Però di recente, proprio la settimana scorsa, è stato scoperto un nuovo coronavirus umano che sia in Arabia Saudita che in Inghilterra, perché poi i virus si spostano con gli aerei, no? Come ci spostiamo noi. E questo virus io lo vedo come un'opportunità, come un qualcosa che contiene un segreto che deve essere decifrato per la salute di tutti. Perfetto, questo ci tranquillizza, perché a noi la parola hanno scoperto un nuovo virus, un po' ci fa paura. Vedo che tu sorridi, proprio c'è una sorta di piacere, perché appunto. E questo virus viene da un pipistrello. Perché insomma, i virus non capiscono che noi siamo persone, loro pensano che noi siamo un altro animale, e così da un animale, il pipistrello, che poi è abbastanza lontano dagli esseri umani, riescono a fare il salto di specie e a infettare le persone. E quindi ragione di più per lavorare in questo campo che è a cavallo fra la salute degli animali e la salute dell'uomo. I virus non aspettano, Ilaria Capa, un applauso per ringraziarla. Complimenti davvero per il tuo lavoro, a te e a tutto il tuo team. Soprattutto al team, soprattutto al team. Siamo sempre in diretta, questa è l'Altra Europa da Trieste Next, il salone dell'innovazione scientifica. Questa 3 giorni dedicata alla scienza e al sapere che si mette in mostra. Tanta Europa e tanti riferimenti europei che vi vogliamo raccontare. E stavo parlando adesso proprio con Ralf Gebauer, il ricercatore tedesco che lavora qui a Trieste per le Nazioni Unite. Ralf, il concetto di Europa, questa Europa che non è solo euro, non è solo crisi, è qualcos'altro, vero? Infatti l'Europa è una cosa che mi sta veramente al cuore. Io dunque, da tedesco, io ho studiato in Francia, ho fatto il dottorato in Francia, adesso lavoro da 10 anni qui in Italia. Io ho amici un po' ovunque in Europa e io sono un europeista molto convinto e sono del parere che noi in Europa abbiamo molto molto in comune, abbiamo molto più in comune che cose che ci separino, e abbiamo anche molto più in comune noi in Europa che diciamo con gli americani e con gli asiatici. Dunque secondo me l'Europa è una cosa molto bella, e lo vorrei anche dire qui ai giovani che sono seduti qui: l'Europa è veramente il nostro futuro, e l'Europa non è lo spread, l'Europa non è l'euro, la moneta, è solo l'economia. E in questi ultimi 2 anni fa veramente un po' la pena vedere come questa idea dell'Europa, che era sempre una cosa molto positiva, è girato a una cosa un po' negativa. Io posso, la mia personale esperienza qui in Italia è che quando la gente adesso sente del mio accento e vede che sono tedesco, allora tutti dicono: ah, ma la Merkel e lo spread. In Germania tutti mi parlano: ah, ma Berlusconi. E io ho l'impressione che queste cose, che per decine di anni stavano crescendo bene insieme, adesso si stanno disfacendo per problemi legati all'euro. E questa è una cosa che mi dispiace veramente. Immagino, sì. Noi tentiamo appunto di fare cultura europea e di proporre l'Europa come un'opportunità, perché ci sono finanziamenti, perché ci sono studi, perché ci sono collaborazioni, e soprattutto per i giovani ci sono progetti di viaggio, di scambi europei. Quindi veramente l'Europa come una grande famiglia dove poter trovare il proprio spazio. E poi ci sono temi, ci sono argomenti che devono essere per forza affrontati a livello globale. Adesso parleremo di ambiente, lo facciamo con un esperto del Centro Tematico Europeo sui cambiamenti climatici, perché si è parlato anche di impatto dei cambiamenti climatici sui paesi in via di sviluppo qui a Trieste Next. Do il benvenuto a Misiak Jaroslav, che è ricercatore senior e responsabile del gruppo di lavoro alla Fondazione Eni Enrico Mattei e al Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici. Buongiorno Misiak. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Cosa vuol dire lavorare in un centro tematico europeo? Cosa vuol dire affrontare il discorso dei cambiamenti climatici a livello europeo? In prima linea è la possibilità di, diciamo, dare una impronta alle politiche europee, dalle conoscenze, dalle ricerche che abbiamo accumulato, dalla eccellenza scientifica che abbiamo accumulata presso Fondazione Enrico Mattei e Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici. Quindi è una grandissima soddisfazione che la nostra ricerca può influenzare le politiche europee di adattamento e di mitigazione. Perché questo è importante, vuol dire che comunque si fa ricerca, vuol dire che si ottengono risultati, vuol dire che questi risultati possono anche cambiare le cose, quindi che non rimane solo teoria ma ci sono anche risvolti pratici. Beh, noi lo speriamo veramente, lavoriamo verso, diciamo, questo obiettivo. Non sempre è facile perché le politiche non sono determinate solo dalla evidenza scientifica, sono anche diciamo risultato di una negoziazione politica, negoziazione di diversi valori e diverse visioni come l'Europa debba rispondere a questa minaccia più grande del XXI secolo. Però sì, noi cerchiamo di dare il nostro contributo, appunto il Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici è nato come centro di eccellenza italiano, quindi raggruppa i primi centri di ricerca italiani in tutte le discipline che hanno a che fare con i cambiamenti climatici. Noi come Fondazione Enrico Mattei copriamo la parte economica, siamo centro specializzato in economia ambientale. Altri colleghi sono la climatologi, sono agronomi, quindi CMCC, come chiamiamo il nostro centro, CMCC raggruppa tutte le discipline, tutta la expertise necessaria per dare una risposta unica e integrata. Lei in particolare si occupa di eventi estremi come per esempio le alluvioni dal punto di vista anche economico e della loro gestione economica, quindi le ricadute che hanno questi eventi poi nelle tasche anche, no, dei cittadini. Questo cosa vuol dire? Vuol dire lavorare sulla prevenzione, vuol dire fotografare continuamente quella che è la situazione reale, o vuol dire arrivare sempre un attimo dopo, un attimo in ritardo? No, vuol dire un po' tutto questo, quello che ha citato, quindi vuol dire rendersi conto in prima linea cosa che perdiamo alle calamità naturali, rendersi conto della vulnerabilità e della ridotta resilienza delle comunità, dei settori economici, quindi costruire le conoscenze che ci permettono di migliorare il nostro sistema di prevenzione ma anche risposta alle situazioni emergenziali. Grazie davvero. Impatto dei cambiamenti climatici sui paesi in via di sviluppo, l'evento al quale parteciperà oggi alle 15 qui a Trieste la Scuola Superiore di Lingue Moderne per interpreti e traduttori. Buongiorno Misak, grazie per aver partecipato all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno. E continuiamo a parlare invece di ambiente a livello europeo, però partendo anche da una situazione territoriale, quindi in questo caso siamo a Trieste e vi raccontiamo proprio una storia che sta nascendo qua, ed è la storia di una casa, lo dico in maniera molto riduttiva, ma è una casa particolare, è una casa alta perché stiamo parlando di un palazzo di 6 piani, si chiama Panorama Giustinelli ed è un progetto innovativo. Con noi c'è l'ideatore, do il benvenuto ad Alessandro Beltrame. Buongiorno Beltrame. Buongiorno a voi. Cosa vuol dire che stiamo parlando di un progetto innovativo? Di che tipo? Beh, è una casa che è considerata virtuosa per la capacità di funzionare senza consumare energie non rinnovabili. Quindi raccoglie l'energia dalla natura, nel sottosuolo, dal sole, dal vento, per funzionare. È una casa che quadra il cerchio della virtuosità perché è anche costruita con materiali sostenibili. Ecco, questo è un esempio di come la ricerca poi possa avere ricadute reali nella vita di tutti i giorni. Si parla di sostenibilità, quindi si parla anche di rispetto dell'ambiente. Ecco, quando si parla di sostenibilità urbana in Europa, cosa significa? Noi italiani siamo indietro, anni luce, è una cultura diversa. Noi siamo sicuramente quelli, siamo indietro. Se il nostro progetto in Italia è considerato virtuoso, in Europa un progetto come il nostro sarebbe normale, salvo la dimensione che veramente la porta ai vertici. Perché è un palazzo di sei piani. Di sei piani, diciamo, ce n'è uno di nove piani in Inghilterra, di sette piani a Berlino, poi arriviamo noi. Però dal punto di vista della sostenibilità, ecco, lì è una cosa in Europa, diciamo dall'Austria e Svizzera in su verso il nord, sostenibilità è una cosa assolutamente normale, non ha assolutamente nessuna ombra di legame con l'integralismo verde da barricata, è una cosa che tutti condividono. Mm-hmm. La ricerca oggi è dato per scontato che le case devono funzionare senza consumare energie che derivano dal petrolio. Ora lo sforzo è quello di creare delle case che in fase di costruzione siano rispettose dell'ambiente. Da questo punto di vista il cemento e il ferro segnano il passo, perché per essere prodotti consumano moltissima energia. Basta cemento, basta ferro, ma sarà il legno uno dei materiali di costruzione del futuro, che uno dice vabbè, allora usiamo il legno e in questo modo però danneggiamo l'ambiente, quindi perché il legno è ecologico? Il legno è ecologico perché nell'arco alpino noi abbiamo moltissime foreste. Consideriamo che ogni 5 secondi cresce legno a sufficienza per costruire una abitazione. Il nostro palazzo possiamo considerare che nel giro di alcuni minuti può essere costruito con il legno che è cresciuto in quel momento. E questo succede in tutta Europa? E questo succede dove ci sono foreste, sicuramente. Mm-hmm. Sostenibilità è anche minimizzare i trasporti. Il legno c'è in Italia, quindi possiamo tranquillamente usarlo. Il legno è interessantissimo dal punto di vista della sicurezza degli edifici. Attualissimo il tema del terremoto. Gli edifici costruiti in legno sono i più elastici. Con la loro poca massa seguono facilmente i movimenti del terreno e non cedono assolutamente. Sono stati fatti degli esperimenti clamorosi che sono visibili anche in rete, fatti dal CNR e da enti privati. La vostra esperienza, questa di questo progetto Panorama Giustinelli, questo palazzo di sei piani che nascerà nel centro storico di Trieste, racchiude anche quelle che sono le tante filosofie di Climabita Foundation, che sarebbe una sorta di nucleo pensante proprio su queste tematiche. Climabita Foundation è neonato, fondato dal dottor Lanschner, che era è stato il fondatore di Casa Clima. Casa Clima è un sistema di certificazione che è il più rodato, invalso soprattutto in Alto Adige, dove ha avuto fortissime spinte anche politiche, e dalla politica viene comunque sostenuto, però si è diffuso in Italia, ha il limite di essere molto legato al territorio altoatesino. Credo che sia per questo che il dottor Lanschner ha fondato Climabita Foundation, che supererà gli standard già altissimi di Casa Clima, andando a incidere nelle valutazioni, oltre che sulla capacità del guscio di trattenere l'energia, anche valutando tutta l'impiantistica e, come si dice, anche i materiali di costruzione. Grazie davvero Beltrame, complimenti per questo stimolante progetto, e ricordiamo, se ne parlerà domani alle 11, soluzioni abitative per l'autosufficienza energetica. Noi ora invece facciamo un salto nei Balcani. Miloš, dolazim s poluotoka Pelješca, sa samog ulaza na poluotok, jedno malo mjesto Ponikve, u blizini Stona, Quello che state ascoltando è un audio del video di un progetto chiamato Le strade del vino nei Balcani. L'abbiamo scelto per introdurre il prossimo ospite, sarà una delle protagoniste domani dell'incontro Donne e Innovazioni nei Balcani, che si terrà alle 12 sempre presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per interpreti e traduttori. Diamo il benvenuto ad Anna Brusarosco, docente di Geografia Umana all'Università di Padova e corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno Anna. Buongiorno e grazie dell'invito. Grazie a lei. Si parlerà di donne e innovazioni nei Balcani, una zona che spesso abbiamo sfiorato, spesso abbiamo toccato, a cavallo dell'Europa, non ancora tutta in Europa, lì ai confini dell'Europa, anche con se c'è tanta voglia di Europa. Ecco, la ricerca che significato ha oggi nei Balcani? Ma è importante secondo me continuare a fare ricerca sui Balcani, continuare ad approfondire insomma la conoscenza di quest'area che è così vicina a noi, appunto. Trieste è veramente la porta dell'Europa propriamente detta, insomma l'Europa come la conosciamo oggi, sui Balcani, che diventeranno, si spera, parte dell'Unione Europea, chi prima chi dopo, nei prossimi anni. E fare ricerca, secondo me, dal mio punto di vista, fare ricerca nei Balcani è un'opportunità e una fonte di stimolo grandissima, perché è un'area in profondo cambiamento, in cui c'è veramente molto da scoprire, c'è anche molto interesse, scopro ogni giorno verso i Balcani. Sempre di più sento giovani che sono interessati a queste aree, che ci vanno in vacanza. È un vicino che però è ancora da scoprire, ecco. Ecco, lei in particolare si occupa di ricerche che vanno direzione, mi pare, dello sviluppo rurale, della cooperazione. Questo significa partire dal territorio per creare nuove opportunità di lavoro? Sì, certo. Lo sviluppo rurale dovrebbe essere proprio questo nei Balcani. I Balcani sono ancora in generale un'area molto rurale. Circa il 60% della popolazione della Bosnia Erzegovina vive ancora in aree rurali. È ancora, insomma, la ruralità è ancora un elemento fondamentale del territorio della Bosnia Erzegovina, ma come degli altri paesi dei Balcani. E da qui può, secondo me, dall'ambito rurale può veramente arrivare un'opportunità di sviluppo e di sviluppo sostenibile per questi paesi, proprio perché l'agricoltura, le attività in generale in ambito rurale sono ancora praticate in modo abbastanza tradizionale, l'agricoltura è praticata su piccole lotti, non è ancora l'agricoltura intensiva che conosciamo qui da noi, insomma. Quindi c'è veramente sono ampi margini di lavoro per creare delle opportunità di lavoro, di occupazione, di sviluppo che portino uno sviluppo alle persone senza distruggere il territorio, come magari è avvenuto nei nostri paesi, ecco. Grazie davvero Anna, ricordiamo domani Donne e Innovazioni nei Balcani alle 12. Buon sabato, grazie per aver partecipato all'Altra Europa. Saluto e ringrazio anche Ralf Gebauer, che è stato qua con noi in studio per portare la sua esperienza di vita da ricercatore. Ralf, un'ultima domanda: qual è la bellezza della ricerca? Qual è proprio il motore? Qual è il cuore della tua quotidianità? Allora, il cuore chiaramente è la curiosità, e questa idea di provare a capire meglio come interagiscono atomi, come interagiscono le leggi fondamentali che conosciamo, per dare il mondo a ritorno di noi che osserviamo. Questa è veramente la curiosità che mi spinge ogni giorno ad andare al lavoro, a capire meglio come funziona. Facciamo nostra la tua curiosità e ti ringraziamo. Ringraziamo tutta la squadra di Radio 24, Margherita Ine, Miriam Lucchetti, che con me hanno scritto la puntata, Peter Bessone Giuseppe Scappè, Nadia Zammiti, Giorgio De Luca, Filippo Aurigi alla parte tecnica. Saluto anche i ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale Carli di Trieste. Spero sia stata una bella esperienza. Fatevi sentire, eccoli lì. Ciao a tutti, l'appuntamento con l'Altra Europa a sabato prossimo.